Buonasera, benvenute e benvenuti qui al Bar Leila per questo episodio di Cabaret Extra Voltaire. Io sono Laura Canella, Martina Parri e oggi dedichiamo la puntata a Sara Parziani con il suo testo Romanzo di un anamnesi. Camminata nello spazio. Cammina avanti. Indietro. Arriva fino alla parete. Stop. Ferma immobile. Voltati. Rivoltati. Ricomincia. Spalle larghe. Schiena dritta. Sguardo alto. Ginocchia piegate. Piedi larghi. Infinito col bacino. Di nuovo cammina, avanti e indietro. Mi scusi, gentilmente, e le spalle potrebbe larghe. Schiena dritta, sguardo alto, ginocchia piegate, piedi larghi e... l'infinito, quel bacino. Scusate, ma lo dice il dottore. E cammina avanti, indietro, arriva fino alla parete, stop, ferma, immobile, voltati, rivoltati, ricammina. Di nuovo cammina avanti, indietro. Io sono 10 minuti che cammino avanti, indietro e non vado da nessuna parte. Mi annoio. Infinito col bacino. Se almeno mi desse qualcosa da fare, che so, dei piccoli compiti. Arriva fino a qui e portami una penna. O arriva fino alla parete e apri la finestra. Cose semplici, tanto per avere uno scopo. Che se uno ha uno scopo, allora sì che cammina. Ma vagare così, nell'incertezza, una tentenna, ginocchia piegate. Che poi mica si cammina così nella vita normale. La vita normale è piena di ostacoli da superare. Cani. Coppie innamorate che non si staccano. Ombrelli. E si pende un po' da una parte per via della borsa. Io vorrei dire al dottore com'è che si cammina nella vita normale, ma ogni volta che ci provo la visita è finita. Questa è una delle tante volte che cammino avanti e indietro. La prima a 3 anni. Quando nasco ho le anche lussate e così dagli 0 ai 3 anni sono bloccata dalle anche ai piedi in gessi e divaricatori che mi ruotano le gambe prima verso l'interno, poi verso l'esterno e ancora gamba destra interno, gamba sinistra interno. Ma a 3 anni... tolgo tutto, libera, e con le gambe a rana mi trascino per casa. Il pavimento di marmo rosa è uno stagno e io lo esploro tutto. Incontro bricioli di pane che sono ninfe galleggianti, mollette libellule, pezzi di didò, pesciolini rossi, un bottore e qualche acaro. Ciao acaro! E arrivo al percorso di battaglia che Peter Pan, i bimbi sperduti e Kirk, il nostro cane, hanno preparato. Muro, cassa panca, io nel mezzo. Striscio, avanti e indietro. E ogni volta la cassa panca è sempre più vicina. E allora io stringo, stringo e stringo. Finché le mie gambe sono dritte e strette. Gli allenamenti con Pieter, i bimbi sperduti e Kirk proseguono in gran segreto. Muro. Cassapanca. Muro. Cassapanca. Muro. Muro. Muro. Cammina, dice Pieter. Mamma, papà, correte, cammina. Cammino. Forza, dai, parati. Cammino. Cammino. Cammino, cammino, cammino e arrivo alle scuole elementari. Alle elementari ho i piedi piatti, tipo schiacciatine, tipo che plantari e scarpe ortopediche non bastano più, dice il dottore, vanno operati. Tutti e due. Primo intervento, piede destro. Ho un gesso fino al ginocchio. In ospedale, io e mia mamma ci esercitiamo a scrivere le lettere dell'alfabeto, che a scuola sono già arrivati alla C di castagna. E quando finalmente ce ne andiamo, lo facciamo su una carrozzina che mio papà si è fatto prestare dal prete del quartiere, che mi dice sempre: vai a Lourdes, fidati! E alla quale mio papà ha aggiunto un asse a forma di L di legno per la gamba, per tenerla sollevata. In ospedale ci avevano dato una cassetta per la frutta. L'asse a L di legno è meglio. E quando finalmente ce ne andiamo, lo facciamo sulla nostra Fiat regata bianca, che una subito pensa al mare con un nome così, e il colore, che una subito pensa a una giornata di sole, cielo azzurro e nuvole, e non è affatto male. Tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz. Sono il pistillo e le mie compagne di classe sono i petali. Siamo lo sbocciare della primavera. Tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz. Vabbè, di solito quando c'è ginnastica io resto parcheggiata dove ci sono le panchine e guardo gli altri come se fosse un film. Ma oggi la maestra ha detto che si fa il balletto e che lo posso fare anche io. Ha già la musica, ha già l'immagine, lo sbocciare della primavera. E io sono il pistillo. Tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz. Tra il primo e il secondo intervento passo un sacco di tempo seduta. E quando posso camminare vado a fisioterapia, ipoterapia e nuoto, che ha un nome normale e lo fanno tutti, no? A me il nuoto normale non piace. In costume mi sento strana. Le gambe a farfallina io non le so fare. Il bordo vasca è troppo scivoloso, la scaletta troppo stretta, i gradini troppo alti. E guardate che non è vero che l'acqua ti tiene a galla da sola. Guardo come fanno gli altri e guardo se gli altri mi guardano. A me il nuoto normale mette ansia. Vado a nuototerapia. C'è una nana che mi guarda, ce l'ha con me, non si dice nana, una donna nana che ce l'ha con me, è perché io non ho niente, si chiede che ci faccio lì visto che io non ho problemi, sento i suoi occhi addosso. Mi odia. Quando la incontro, trascino apposta un po' i piedi, così magari non mi odia più, penso. Ma lei continua a fissarmi. Forse potrei dirle che, anche se io non ho problemi, ogni tanto vado in ospedale, così mi piace. Potrei, ma alla fine non lo faccio, non le dico nulla. Io e la donna nana ci guardiamo e basta. Anche il nuoto terapia mi mette ansia. Secondo intervento, piede sinistro, ancora ferma. Ho il gesso fino al ginocchio. Il gesso dei miei amici è diverso. Loro quando lo mettono è perché sono caduti da un albero, cose così. Io non mi sono mai arrampicata su un albero, però cado, sì. Varie volte io cado. Montagna. È agosto e io entro un momento in casa, devo andare giù un attimo solo in camera. Scendo le scale e cado. E mi trovo giù in fondo, all'improvviso ho male, ho malissimo al ginocchio destro. Che strano. La forma è strana, non ha più la sua forma. La gamba è normale, ma il ginocchio no, e non riesco a muoverlo. Comincio a picchiarlo. Lo picchio sempre più forte. A pugni lo prendo, sì. Adesso vedi, lo picchio e piango e grido che qualcuno fuori mi senta. Lo picchio che non lo dovevi fare. Lo picchio che io mi sono rotta, che non ne posso più. Lo picchio e piango e grido che io lo odio questo ginocchio, odio queste gambe e i piedi e il corpo, odio tutto e tutti. E se non ci sei rotto adesso, ci stacco io in mille pezzi, arriva mio papà che mi sente, mi vede. Sono solo sceso in camera un momento, un attimo solo. Un colpo secco alla fine, un dolore acuto. Il ginocchio torna dentro. L'hai sistemato? Mi sorride mio papà. Lussazione. Non cammino più quell'estate e le scale le salgo e le scendo seduta. Io ho la sindrome di Ehlers-Danlos. Non riesco neanche a dirlo io. Ehlers-Danlos. Anzi, una volta un medico mi ha sgridata perché non l'ho pronunciato correttamente. Poi... però la pronuncia esatta non me l'ha detta e quindi è che non capisco dove si mette la lingua in ELF. Comunque, per farla breve, è una malattia del collagene che rende tutto eccessivamente elastico e fragile e si presenta con molti sintomi differenti, tra cui piedi piatti, anche lossate, ginocchia lossate, ma anche ematomi sproporzionati, facilità a fratture e ferite e pelle morbida. Insomma, da bambina io ho un sacco di tempo per leggere. E allora leggo. Leggo tutto quello che trovo. Leggo tutti i libri di casa, tutti i libri che mi prestano, tutti i libri che mi regalano, tutti i libri della biblioteca, tutti i libri della biblioteca in montagna, che nessuno ci pensa mai, ma in montagna c'è la biblioteca. Leggo, leggo e leggo. Leggo convinta di trovare nei libri il mio posto nel mondo. Sì, perché andiamo, devo per forza essere una qualche eroina di un qualche romanzo venuta qui per salvare l'umanità. Non ci sono altre spiegazioni, no? E questo mi dico da bambina. Che altra spiegazione se non un destino epico? Sicuramente non malata. I malati, si sa, sono bianchicci, tremolanti, buoni, tremendamente buoni, che i malati, si sa, devono compensare la salute con il carattere. Quindi io, malata, no, salvatrice dell'umanità, anca, ginocchio, piede, anca, ginocchio, piede, anca, ginocchio, baby, one, two, three, anca, ginocchio, baby, one, two, three, anca, piede, anca, piede, anca, piede, baby, one, two, three, altra gamba, anca ginocchio, baby, one, two, three, anca ginocchio, baby, one, two, three, anca piede, anca piede, anca piede, stop, ferma, immobile, lo dice il dottore. Bisogna prendere le misure, essere precisi. Sento il metro freddo premuto sulle anche. Devo stare attenta al tono della sua voce. Devo capire se vado bene oppure no. Devo capirlo perché a me non lo dice mai se vado bene, anche se io glielo chiedo. Io eseguo e sto attenta al tono della voce. La gamba sinistra è più corta della destra di 3,5 cm. Le scarpe con il rialzo non bastano più, va operata. Adesso sistemiamo tutto. Ci sono due cerchi di metallo. Disegna in aria un cerchio. Disegna un altro cerchio in basso. collegati da quattro sbarre sempre di metallo. Una linea verticale. Un'altra linea verticale. Un'altra linea verticale. Un'altra linea verticale. E in mezzo la mia gamba sinistra. Si fratturano tibia e perone. E ogni giorno si ruotano dei bulloni per distanziare le ossa di un millimetro. Così, quando ricresceranno, la gamba sinistra più lunga avrà raggiunto la gamba destra. L'intervento si chiama allungamento, la gabbia Elizarov. Noi la chiamiamo attrezzo. Ma guarda che bello questo sangue! Ma guarda, guarda come sale! L'infermiera. Sono a fare il prelievo preoperatorio. E fa le bolle! Quante! L'infermiera è entusiasta. Io lo trovo impressionante. Io non lo voglio fare l'allungamento e cerco di dirglielo. Allora lei e un'altra infermiera mi tengono ferma, stretta e immobile. E tutti e tre fissiamo il mio sangue che sale e fa le bolle. Mi operano che ho 10 anni, il 17 di ottobre. La data la so perché la scrivo sul diario in grande, come quando scrivo gita. Nel caso ce ne dimenticassimo. Operazione. Ci faccio anche un disegnino, di me stessa. Due cerchi di metallo, quattro sbarre verticali sempre di metallo e in mezzo la mia gamba sinistra. Ci sono anche 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiodi che entrano da una parte della gamba ed escono dall'altra. Servono per tenere agganciato l'attrezzo e fanno male. Torniamo a casa sulla nostra Fiat regata bianca e la carrozzina Vagalur, fidati. Tutti i giorni mio papà ruota i bulloni e mia mamma medica i chiodi. Siamo preparati. Sei preparata. Sono preparata. Ma la verità è che mi sembra tutto disperante. Si può dire disperante? Disperante. Sì, disperante. Quel giorno fu diverso. Lui aveva deciso di dichiararsi mandandole una lettera sigillata con della cera lacca. Lei la tenne stretta al petto e solo a sera, lontana da tutti, la aprì. Devo incontrarvi. Vediamoci al granaio. Vi aspetterò. Vostro E. Ma quale nome poteva nascondersi dietro a quella E puntata? Quale? Lo scopriremo domani, qui, sempre alla stessa ora. Ernesto, Ervaso, Edgar, o Egidio, come il prete che mi dice sempre, vai a loro, non fidati! Durante le medicazioni, io e mia mamma ascoltiamo radiodrammi. E le giornate le passo così, tra radiodrammi, chiodi, bulloni, tutte le storie che mi raccontano e tutti i libri che riesco a leggere. C'è un breve racconto illustrato che mi regalano. Parla di un uccellino che vive chiuso in una gabbia e che tutte le notti piange perché vorrebbe essere libero di volare come gli altri. Una notte l'uccellino piange talmente forte che lo sente anche la luna e gli si avvicina. Allora lui comincia a dire «Perché a me? Perché a me?» Ma la luna nulla. E così per molte notti «Perché a me?» La luna lo ascolta in silenzio. Ma una notte, quando l'uccellino chiede «Perché a me?» La luna gli risponde, perché non a te? Ci hai mai pensato? Perché non a te? Ma infatti, ma perché? Io a 10 anni non lo avevo capito. Dopo l'ho capito, cioè capito, insomma, dopo me l'hanno spiegato. La diagnosi me l'hanno fatta che ho quasi 30 anni. La data esatta non la so. Sì, ho cercato sui miei diari, che io scrivo sempre tutto, ma anche solo una frase, una parola, un disegno. Avrò pensato che questo magari ce lo potevamo anche dimenticare. Insomma, io ho sempre saputo di essere delicata, distratta, un po' sfortunata e bassa. Ma bassa non è una malattia, no? Non respirare, non respiri, respira, respiri, dice il dottore. Aspetta il segnale, ferma, immobile. Sono passati 8 mesi e sono a fare la radiografia per vedere se le ossa della gamba sinistra, più lunga, si sono ricalcificate e se l'attrezzo lo posso togliere. Sdraiata sul lettino, aspetto il segnale, ferma, immobile. Ho addosso un camice piombato che pesa quasi quanto me. Ferma, immobile, ci sto per forza! E ho freddo. Il camice piombato è freddo. Non capisco perché non faccia un camice piombato fuori piombo, dentro paille. Posso avere una coperta? Aspetto, aspetto. Pure il lettino è freddo, che poi lettino. Il lettino della radiografia non è proprio un lettino, più un tavolo, casomai, lungo e stretto, con sopra tipo lampadario la grande macchina dei raggi X. Aspetto, aspetto il segnale così tanto che alla fine mi addormento. Tibia e perone non si sono ricalcificati e per togliere l'attrezzo bisogna aspettare. Intorno ai chiodi si sono formati dei buchi, come dei laghetti. Alcuni sono così profondi che ci posso infilare dentro le dita. Altri invece sono piatti, larghi, con i bordi tutti frastagliati. È un'infezione, dice il dottore. Togliamo l'attrezzo e per 3 mesi facciamo un gesso fino al ginocchio. Ho un gesso fino all'anca. E alla recita del portiere interpreto la signora che sta tutto il giorno seduta su una panchina. Sul copione c'è scritto signora. Tra i sintomi dell'Ehlers-Danlos, cicatrici larghe, atrofiche, lenta guarigione da fratture e ferite, scoliosi, cifosi, ipotrofia muscolare e spalle strette. Ma io non lo sapevo. Quel giorno fu diverso. Poco prima di andare al granaio, lei stava pettinando i bei capelli con la spazzola di madreperla appartenuta alla trisavola, quando lì, sul manico della spazzola di madreperla, notò per la prima volta una E. Come era possibile? Ma quale nome poteva nascondersi dietro a quella E puntata? Quale? Lo scopriremo domani, qui, sempre alla stessa ora. Estate in montagna. Visto che non cammino, in montagna ascolto radiodrammi, leggo, guardo film e telefilm. E siccome siamo una famiglia numerosa, a casa nostra si guardano soprattutto film e telefilm con famiglie numerose. Appuntamento sotto il letto, tutti insieme appassionatamente. I Robinson. Se poi la famiglia, oltre che numerosa, porta con sé un numero considerevole di tragedie, noi non ci scomponiamo. Noi ci appassioniamo, a casa nostra, sera in montagna, si guarda la casa nella prateria. E per ogni famiglia numerosa e tendenzialmente tragica, ognuno di noi si identifica segretamente in un personaggio. Ma di bambine con il gesso fino al ginocchio o fino all'anca non ce ne sono. E quindi io ripiego sulla figlia adottiva, la trovatella, quella c'è sempre. anche se non c'è sempre l'episodio, la rivelazione, quello di quando lei scopre che loro e allora... Io l'ho sempre saputo di essere stata adottata, sono gli altri che ogni tanto se ne dimenticano. Lo zio, a pranzo, la domenica, quando passa in rassegna me, mio fratello e le mie sorelle. Tu, mamma? Tu, papà? Tu, mamma? Tu, imbarazzo. La sindrome di Ehlers-Danlos è una malattia ereditaria. Non avevo mai riflettuto davvero sul somigliare pure io a qualcuno. Cioè, ho sempre saputo di essere stata adottata, ma ho sempre creduto di essere nata sotto un cavolo. E invece scopro, di punto in bianco, di aver ereditato qualcosa da qualcuno. Certo, potevano lasciare un biglietto, così magari avremmo capito tutto prima. E magari avrei potuto ereditare un castello. Scoprire di avere nobili origini e un castello. E invece no, sindrome di Ehlers-Danlos. Seconda media, seconda lussazione. Suona la campanella di uscita e nella confusione un mio compagno per sbaglio mi spinge. Io cado male, malissimo, al ginocchio sinistro, che è strano e non riesco a muoverlo. Mi trovo a terra, con tutti intorno, c'è anche il mio papà che è venuto a prendermi. Io trattengo il fiato, lui dà un colpo secco e il ginocchio torna dentro, ancora ferma. Però ricevo un sacco di telefonate, soprattutto dal mio compagno, quello della spinta. Lui proprio mi chiama tutti i giorni. E io tutti i giorni gli dico di stare tranquillo, di non preoccuparsi, che sono cose che capitano, no? Perché capitano. Vabbè, sono un po' sfortunata, penso, in seconda media e anche dopo. C'è qualcosa che mi perseguita. La sindrome di Ehlers-Danlos è una malattia genetica. Non è lei che mi perseguita, sono io che me la porto dietro. Quindi non è sfortuna. Ok, non è proprio nemmeno fortuna, però quello che mi pesa è l'idea di dover sempre ricominciare da capo. Sono in seconda media e mi pare di non aver fatto altro nella vita che imparare a camminare. Avanti, indietro, voltati, rivoltati, infinito col bacino, ma io non ci so camminare, come dice il dottore, neanche oggi. Però poi mi dico che alla fine io cammino e se devo ricominciare io ricomincio. Anche perché altrimenti che fai? Non cammini? Cammini. In qualche modo cammini sempre. Io la vorrei dire questa al dottore. Hai una S sulla schiena. Una S sulla schiena? Piegati di più, di meno, fin dove riesci. Prendo il goniometro. Il goniometro, ho una S sulla schiena. Ma se tutti avessimo una lettera dell'alfabeto sulla schiena, ma potremmo creare parole, potremmo creare intere frasi incontrandoci al supermercato o fermi al semaforo. Interminabili partite di scarabeo. Si muove nello spazio per scrivere una parola. Tobus. Riprova. Riprova. Botus. Sbagliato ancora, riprova. Busto. Busto. Devi mettere il busto, mi dice il dottore. Lei è sicuro di non voler dare neanche un'occhiata alla mia rotula? Reggere forte, non respirare. Farò paura alla gente con quell'orrore addosso. Tu non dovere vedere gente, essere in lutto. Oh, mamma, mi sono così magra e pallida e non ho vestiti. Di avere detto e ridetto che vera dama in pubblico dovere mangiare poco, come uccellino. Non stare bene che nella casa di Mr. Wilkes tu ingozzarti e riempirti come tacchino. Dopotutto, domani è un altro giorno. Accanto a me, Mami e Rossella Wara. Anche loro alle prese con il busto in alto le braccia, trattiene il fiato, dice il dottore. Guarda che stringo, stringo troppo. Ma un po' deve stringere. Chiuso, ci sta perfettamente. Oh, Boston, suona elegante, vero? Boston è il modello di busto che metto in terza media. Fatto su misura per me, una scatola di plastica. Davanti un pezzo unico, dietro dei laccetti di velcro. Contro la schiena sento le spinte, che raddrizzano la spina dorsale. Mi stringe, stringe. Magari mi farà più magra? Non mi fa più magra e così a scuola sfoggio larghe salopette, enormi camicie a quadri e magliette così grandi che le usa anche mio papà. A chi non sa e non chiede, io non dico. Ho 13 anni. E questo è il mio periodo hip hop. A volte lo odio, il busto. Lo odio quando non posso vestirmi come voglio. Lo odio quando mi fa diventare la pelle rossa e mi stringe così forte che non mi fa respirare. Ma a me non importa. Se non mi fa respirare, io apposta respiro più forte. Inspira, espira. Inspira, espira. E spingo. Sì, spingo contro queste pareti di plastica. Inspira, espira. E spingiamo tutti insieme. Inspira, espira. Polmoni, fianchi, inspira, espira. Pancia, schiena, inspira, espira. Spingiamo sempre più forte ad ogni respiro. Si formano come le crepe. Inspira, espira. Crepe che diventano sempre più grandi e si aprono. Inspira, espira. E dalle crepe spuntano rami, foglie che corrono lungo tutta la parete di plastica. Inspira, espira. Edera, edera, edera che la avvolge, la ricopre. Inspira, espira e la allarga. E spingiamo tutti insieme sempre più forte. Che hanno tre. Magari hanno tre lo rompiamo. Magari hanno tre lo spacchiamo, lo frantumiamo in mille pezzi. Che gli starebbe proprio bene. Tengo 6 mesi il busto. Sai che a me sembrano 1000 o giù di lì. Lo tolgo il giorno del mio compleanno. Inizio il liceo e non ho nulla. Nulla di strano addosso, busti, gessi, nulla. Metto vestiti che mi piacciono, vabbè, vestiti, le gonne al liceo non ancora per le cicatrici, ma pantaloni e magliette a grandezza naturale. Abbandono l'hip hop e mi converto alle Spice Girls, le amiche vere. Almeno finché non abbandono il girl power per amore di Nick dei Backstreet Boys. Quel giorno fu diverso. Lui vagava per il bosco inquieto. Per troppo tempo aveva indugiato sui suoi sentimenti. Sarebbe stato capace ora di dirle tutto? Così pensava, mentre con un coltellino svizzero incideva su un pezzo di corteccia un cuore trafitto e al suo interno una E. Ma quale nome poteva nascondersi dietro a quella E puntata? Quale? Lo scopriremo domani, qui, sempre alla stessa ora. Passano così 100 quasi di questi giorni, poi bisogna rimettere il busto, dice il dottore. No. Ha un no unico, dritto, che esce dalla bocca mia e dei miei genitori, senza nemmeno andiamo a casa e parliamone. Per tutti e tre è semplicemente no. Quello che non capisco a 13 anni è cosa c'entra la schiena. I miei punti deboli sono le gambe, i piedi. Cosa c'entra la schiena? Quanti punti deboli si possono avere in contemporanea? La sindrome di Ehlers-Danlos è una malattia rara che colpisce varie parti del corpo. Ho letto che in generale ha un'incidenza di una ogni 5.000-40.000 persone. E ho letto che la giornata mondiale dedicata alle malattie rare è il 29 di febbraio, data scelta appositamente per il suo esserci solo una volta ogni 4 anni e quindi essere rara. Uno ha una malattia che praticamente nessuno conosce e per parlarne hanno scelto un giorno che praticamente non c'è. Comunque, in base alle parti del corpo coinvolte, la sindrome viene suddivisa per tipologie. Alcune sono davvero molto gravi perché le parti del corpo coinvolte sono gli organi interni. Io no. Io mi faccio solo male. Terza liceo, terza lussazione. Andiamo in gita in montagna a sciare, vabbè io non scio, ma per arrivare al rifugio dobbiamo prendere la seggiovia. La seggiovia è l'imprevisto. Appena mi arriva dietro le gambe ho male, malissimo al ginocchio destro o sinistro che è strano, non riesco a muoverlo e grido. E la seggiovia continua a salire e io continuo a gridare. Poi mi trovo su un elicottero imbragata, gambe e braccia legate strette alla barella, strette ma così strette che un colpo secco e il ginocchio torna dentro da solo. Miracolo! Arriviamo in ospedale. Prende uno stetoscopio che usa come un burattino. Quindi? Tu dici di esserti lussata al ginocchio? Il dottore della gita. E come fai a sapere che era proprio lussato? Vede, a me capita. E se era lussato, com'è che ora è al suo posto? Allora, secondo me, quando mi hanno stretta, guardalo bene. Forse era suggestione. Come? Forse ti sei spaventata e ti sei immaginata di esserti lussata al ginocchio. Stiamo tutti molto calmi. Quindi tu dici di esserti lussata al ginocchio. Posso chiamare a casa? Alla fine non lo scrive sul referto che mi sono lussata al ginocchio. Non mi crede il dottore della gita. Capita quando dico che io quella cosa non la faccio perché non so perché, ma potrei farmi male. Pigrizia, paura, suggestione. Perché poi? Cioè, perché non credermi? Perché dovrei inventarmi che mi faccio male? Anche se effettivamente non lo puoi dimostrare prima di esserti fatta male. La sindrome di Ehlers-Danlos è una malattia invisibile. Non è che proprio si vede. Per esempio, sei in treno. E metti che vedi una che non ha un braccio e deve mettere in alto la valigia. La vedi e glielo chiedi, no? Glielo chiedi se l'aiuti. Io te lo devo dire. Cioè, te lo dovrei dire. Io non lo faccio perché non mi va. E poi tanto non si vede, è una malattia, nessuno la conosce, nessuno ne parla. Vabbè, a meno che è proprio il 29 di febbraio. Allora dico che oggi non riesco, che la valigia è un po' pesante e che sono bassa. E meno male che sono bassa, perché pensa che strano uno alto che ti chiede una mano per mettere in alto una valigia. Quello è strano. Sono ancora al liceo e inizia una serie infinita di distorsioni alle caviglie. Buche nell'asfalto, marciapiede, binario del tram, attimo di distrazione. E ogni volta nessuno capisce come ho fatto a farmi così male e perché ci metto così tanto tempo per recuperare. Forse perché se basta. A volte ci ho pensato, sta a vedere che la soluzione è davvero vai a Lourdes, fidati. Solo che poi mi sono iscritta all'università e io non ho più avuto tempo per queste cose. All'università sono in un'altra città, dove nessuno mi conosce. Io vado alle feste, a un corso di cucina, a un corso di teatro, a un corso di yoga. Siamo seguaci di una signora indiana che ci parla proiettata su una parete mentre noi ci alziamo da Kundalini seduti sulla sedia. È un corso di yoga seduti sulla sedia. Io non lo sapevo, ma meglio. Ogni tanto c'è qualcuno che mi guarda, che cerca di trovare qualcosa, ma io non so cosa. So che a volte sono davvero tanto stanca. Di nuovo mi c'era una caviglia, un ginocchio. Sto scrivendo la tesi quando iniziano i dolori ai polsi e le mani. A teatro inciampo, cado, mi rompo un piede. E non capisco perché. Sono in un'altra città. Non dovrei farmi male qui. Mi operano, la sono ricrescente in stabiliti, mi laureo e lo spettacolo lo faccio seduta su una panchina. La mia vita va avanti a mille, ma il mio corpo insiste per riportarmi indietro. Perché il mio corpo mi tradisce? Perché non sta dalla mia parte? Perché non la smette? Tra i sintomi dell'Ehlers-Danlos, stanchezza e dolori cronici, distorsione alle caviglie, lassità di mani, polsi e... non mi ricordo. Io vorrei tanto avere una storia avvincente da raccontarvi. Tipo, mi sono fatta male lanciandomi col deltaplano o saltando da un edificio in fiamme, salvando l'umanità. O tornando a casa, ma Tara, dopo tutto, domani è un altro giorno. Ma io non ce l'ho una storia così. Io cado da me stessa. Quando mi fanno la diagnosi, penso subito a tre cose. La prima è che preferivo essere distratta, delicata, un po' sfortunata e bassa. La seconda è, quindi finirò in mille pezzi? La terza è che se ti dicono che sei malato, dovrebbero anche dirti come si guarisce. Come si guarisce? Dov'è il mio intervento? Voglio il mio intervento. Non ne parlo mai di queste cose, di nessuna di queste cose. Ho letto da qualche parte che le cose più importanti sono le più difficili da dire. È che a volte ti sembrano troppo difficili o spaventose o diverse e hai paura che se le racconti le persone se ne andranno. Io ho sempre molta paura che le persone se ne andranno. A volte anche quando racconti qualcosa di troppo bello, le persone se ne vanno. E poi dipende perché si resta. A me non piace quando si resta per pietà. È deprimente la pietà. Non sai mai cosa raccontare alle persone perché restino davvero. Io vorrei che le dicessimo le cose più importanti, tutti. Che le nominassimo, anche le paure di tutti, proprio con il loro nome, dico. E se una si sente diversa, o se uno ha un problema, o è stanco, diciamolo. Certo, bisognerebbe trovare un modo per farlo, un bel modo, perché quando dici qualcosa, quella cosa diventa vera. E se quello che dici è che hai paura, però insomma, se tanto è già vera, magari dicendola diventerebbe meno spaventosa, no? Io comunque non ne parlo mai. Beh, non ne parlo mai. Non ne parlavo mai. Poi ho cominciato a fare delle piccole prove, così, per vedere che succede. Mi sono scritta il discorso, mi sono preparata al tono della voce, il climax dell'emotività e ho preso un amico di vecchia data e un'amica recente. E ho detto, ti devo parlare. È andata così davvero. Cioè, non proprio tutto, cioè, Allora, lo stetoscopio è uno stetoscopio, non è un dottore. Ma a parte lo stetoscopio è andata così. E quando ho concluso, nessuno che mi abbia detto incredibile. Nessuno non l'avrei mai immaginato, nessuno impossibile. Con tutta la fatica che ho fatto per non farmi notare. Nessuno. Solo io. Solo io non l'avrei mai immaginato, ma perché? Si vede qualcosa? Cos'è che vedete? Perché io non vedo nulla. Mi hanno spiegato che questa sindrome è legata sia alla fragilità, sia proprio alla conformazione del corpo, ma non so, le mani, i gomiti. Cos'è che vedete? Io non vedo nulla. Ero andata a quella visita per avere una soluzione. Una va dal dottore per quello, no? Per avere un finale, un bel finale. Che nei miei libri c'è sempre il lieto fine. Certo, basta non essere l'amico fidato del protagonista, perché l'amico fidato del protagonista muore. Ma il protagonista come fa? Insomma, si trova in una situazione iniziale stabile. Magari non entusiasmante, ma stabile. E arriva un mago, una fata, un animale parlante, un albero che gli dice: tu sei il predestinato. La profezia parla chiaro. Tu e solo tu. E lui, in una parola, è fregato. Si trova coinvolto in un'impresa di cui di fatto conosce e capisce poco. Eppure accetta. E anche quando le cose si mettono male, e potrebbe dire che ci ha provato perché ci ha provato, ma grazie tante, finisce qui, non lo fa mai. Non ho mai trovato un protagonista a dire grazie tante, finisce qui. Io a volte lo farei. Ma lui, pagina dopo pagina, è sempre più deciso ad arrivare fino in fondo. Più va avanti, più si aggrappa a qualcosa e capisce che quella non può che essere la sua di storia. E alla fine ce la fa. In qualche modo ce la fa sempre. L'animale parlante aveva ragione. Bisogna essere l'eroe. Questo è quello che ci insegnano i romanzi. Altrimenti a che serve la vita? Questo è un bel finale, vero? Lo so, ora tu, qualcun altro, starete dicendo ma quanto è morale. Allora, io l'ho riscritta 4 volte questa parte e niente, alla fine viene così. Quindi mi sa che a me sotto sotto un po' la morale forse piace. E poi questo non è un finale, perché come si fa? Cioè, come fate voi? Come si fa ogni giorno ad andare avanti senza sapere come andrà a finire? Io ci penso costantemente, giorno e notte, al lieto fine. Io voglio la garanzia che andrà tutto bene. Io devo sapere che la parte difficile è finita, altrimenti non mi muovo, resto qui, ferma e immobile. Come fate voi ogni giorno? Perché io, se ci penso, ho paura. Io, se ci penso, ho una paura che mi toglie il fiato. Andare avanti senza sapere. Questo non è un finale, questo è un inizio. E la verità è che io ancora oggi non ho ben capito tutto questo, che significa e che significherà. Però ho capito che gli altri, le persone, voi per esempio, le persone lo capiscono. E allora forse lo si può anche raccontare. Riassumendo, sono delicata, distratta, un po' sfortunata e bassa. E meno male che sono bassa. Quel giorno fu diverso. Davanti al granaio, con alle spalle il sole che tramontava a ovest, dopo essere sorto ad est, i due si incontrarono. Lei stretta al petto una lettera aperta con della cera lacca e tra le mani la spazzola di madreperla appartenuta alla trisavola. Lui in pugno un coltellino svizzero e appeso al collo un pezzo di corteccia con inciso un cuore trafitto. Entrambi circondati dalla lettera E. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie. Questo era Romanzo di un'anamnesi di Sara Parziani, che è testo vincitore del premio di drammaturgia contemporanea del progetto DOI dell'Articolo, pubblicato nel 2021 da Chi più ne ha Arte Edizioni. Beh, giusto perché ce la stiamo tirando, mi ero dimenticata, e anche di Teatro di Narrazione 2025. E il testo è nato all'interno appunto di un progetto, di un workshop, no? Perché poi Sara Parziani, tu sei attrice, autrice, educatrice, giusto? E appunto questo progetto è nato all'interno di questo workshop con Lucia Calamaro e... Io avevo fatto un workshop qualche anno precedente, dopodiché lei aveva aperto una call rivolta a tutte le persone che avevano partecipato con lei negli anni ai suoi laboratori per attrici, autrici o attori, autori. E niente, quindi si candidava un testo, una bozza di testo, e poi cominciava questo percorso appunto di scrittura, raffinando ovviamente la bozza presentata e anche di lavoro in scena. Quindi poi era diventata una cosa proprio... Lei ci teneva a questa figura, doppia figura, quindi eravamo tutte persone che poi stavano anche in scena con i loro testi e che pensavano anche in autonomia alla messa in scena, che ovviamente questa era una lettura, non voglio dire regia perché secondo me la regia è un'altra cosa, però ognuno poi pensava alla sua struttura, alla sua messa in scena, perché proprio l'obiettivo era questo del percorso, ecco. Non per interpreti, però, per intenderci. Oddio. Quindi la mia domanda è rispetto al tema che hai scelto di trattare, cioè, come, se questo è il tuo primo testo, e come mai hai scelto di trattare questo tema così autobiografico, e se era la prima volta che ne parlavi, cioè, se per te anche scrivere questo testo è stato un po' una scoperta, e se si è cambiato, cioè, come è nato, come mai hai deciso di parlare di questa cosa? Sì. Allora, è il primo testo effettivo, nel senso che... No, scusatemi, no, è rimasta senza fiato. È il primo testo effettivo, nel senso che, ovviamente sono tra le tante persone che hanno sempre scritto, e anche quando facevo teatro scrivevo dei miei pezzi. Ho poi scritto per un attore che fa teatro di narrazione su commissione, però non mi sentivo che era il mio lavoro, era nato in maniera quasi occasionale, tra chi sapeva, chi mi conosce, chi? Cosa devo fare? Lontano un po' il microfono. Ok, scusate. Quindi appunto mi ero un po' buttata alla cieca su... Dopo aver fatto questo laboratorio con lei mi era piaciuta e quindi mi ero un po' buttata. In realtà il tema è nato mentre scrivevo, nel senso che io ero partita come idea dal voler... Lucia Calamaro fa lavorare sull'autobiografia di default, proprio il suo approccio, e sul tema, più che sui fatti. E il mio tema era il rapporto tra fantasia, immaginario e reale, e quanto questi si possano parlare. Quindi ero partita prima con altro, poi memoria anche del laboratorio fatto negli anni precedenti, mi sono chiesta sì, ma quando la fantasia è entrata in gioco nella mia vita reale? E in parallelo, appunto, avevo comunque già 35 anni più o meno, stavo elaborando in qualche modo tutta la mia storia, nel senso che stavo sentendo che appena avevo desiderio di, cioè appena parlavo con qualcuno avevo desiderio di, cioè non dico appena, però di condividere, di svelarmi un po' di più di come avevo sempre fatto. Quindi appunto scrivendo è uscito, cioè proprio chiedendomi ma io quando ero fantasiosa? Ah sì, ero fantasiosa quando non camminavo e quindi immaginavo i laghetti anziché i buchi piuttosto che... E, gli olimpiadi sono più forti di me. No, infatti su questo forse ti chiederei diciamo di raccontarci se ti va il rapporto che c'è tra la realtà e la fantasia, no? Nel senso che appunto è un testo autobiografico che quindi parla di te, della tua malattia, ma come è stato a livello anche proprio di costruzione del testo, di approccio alla scrittura, cercare di stare in questo gioco tra realtà e fantasia, e forse anche diciamo che si coglie chiaramente un tema un po' ironico, no, nel tuo tono. E quindi se anche questo ha giocato a favore, diciamo, del anche magari sbloccarti nel raccontare questa cosa, o cioè diciamo sia a livello di tua scelta, ma diciamo, a livello proprio anche di scelta di scrittura, se questa, il fatto di aver spaziato tra realtà, immaginazione e ironia in qualche modo ha una valenza per te, anche proprio per diciamo il tuo modo di scrivere come drammaturga. Ho spiegato bene. Grazie per la domanda. Allora, sicuramente c'è una parte naturale, nel senso che io tendenzialmente sono una persona ironica nella mia vita quotidiana e che non ama appunto realmente la pietà e tutte queste cose, quindi è un po' il mio modo di fare, questo dato per certo. Dopodiché scrivendo, ma anche cioè, quando andiamo a teatro, quando vediamo dei film, sicuramente l'ironia permette di abbattere dei muri, tanto più se si parlano di spettacoli o di tematiche, anzi, delicate. A me capita spesso, magari anche come stasera, che all'inizio non si sa se si può ridere o meno, poi io, cioè nel senso si entra nel gioco e quindi è, anzi, ben venga il sorriso, il riso. Quindi sicuramente è anche uno strumento di avvicinamento all'altra persona, ecco. E anche mettere un po' le cose in chiaro, cioè dire guarda, per me non è un dramma. Cioè, quindi giochiamoci, ridiamone, poi magari possiamo anche io, come tu, della tua difficoltà nel stare al mondo, perché poi ognuno ha le sue, e poi magari andiamo a parlare di cose più sotto, più profonde, ecco. Però sicuramente è un primo modo. E per quanto riguarda appunto la fantasia e l'immaginario, appunto, sicuramente anche qui è una cosa mia, nel senso prendo la metropolitana e mi immagino cose assurde, mi ha tanto aiutata, mi sono resa conto poi da adulta, come scamotage per ampliare un po' le mie possibilità oggettive, cioè perché io effettivamente non mi sono potuta muovere per molto tempo, o avevo tanti momenti poi in cui tornavo ferma, e mi ha molto, cioè io non ho un ricordo... Non voglio esagerare, però al di là delle cose in sé, non ricordo brutto. Cioè, proprio perché mi ha ampliato tanto la possibilità di gioco con gli altri bambini e le altre bambine, di stare in gruppo, di essere. E nella scrittura io sono, appunto, a un certo punto, non voglio dire, ma ho quasi scritto il grosso in 15 giorni. Cioè, proprio dovevo uscire tutto. Poi molte cose magari le ho anche volute recuperare, anche chiedendo ai miei, eccetera. Quindi ho fatto proprio un lavoro di ricostruzione mio. E poi riprendendo il testo, ovviamente che non ho scritto tutto, cioè 15 giorni di grosso, poi vai, eccetera, me lo sono un po' immaginata. Cioè il laghetto, il pavimento rosa, non è un ricordo di me da bambina, però è il pavimento rosa di marmo, ce l'ho davvero, e quindi ora che lo scrivo e ora che mi immagino che azione farò, mi si riattiva l'immaginario. E io ovviamente, essendo un po' in bilico tra la scrittura e stare in scena, ho scritto molto, e poi ci sono delle parti, non so, gli segni in aria, che sono nate provando, o altre parti che sono nate casualmente, cioè mettendo un maglione mi è venuta un'idea di formazione piuttosto che, però diciamo grosso scrittura, e poi ho alternato anche il lavoro in scena, ecco, che mi ha aiutata a trovare più immagini fantasiose. Infatti anche proprio nel titolo, vabbè, cioè romanzo di un'anamnesi, no? Quindi è un po' la tua anamnesi romanzata, un po' sul, cioè che in realtà poi penso anche al fatto, cioè tu parli sempre di questo corpo che non è adeguato, tra virgolette, no? Perché non funziona, cioè almeno quanto c'è scritto nel testo è a 30 anni che ti fanno la diagnosi, quindi prima di allora tu eri solo strana, cioè, e alla fine un po' questo, la possibilità, questa necessità di doversi spiegare, di doversi dare un nome, di doversi giustificare rispetto a appunto una società che non accetta la diversità, penso sia l'ironia che è un modo per spiegare qualcosa di diverso senza vittimizzarsi, quindi può essere anche un po' una difesa, e anche al fatto che poi nel momento in cui stai veramente male, il mondo della fantasia, i libri, il radiodramma è un po' anche un po' una fuga, mm-hmm. un luogo dove nessuno ti chiede perché sei caduta, perché ti sia uscito il ginocchio. E anche poi a me è venuto anche l'immaginario, è anche quello che gli altri ti dicono, cioè ti fa male il ginocchio, il dottore non ti crede, ma è immaginario, no? Quindi secondo me c'è tantissimo questo rapporto tra immaginario e realtà, che mi è piaciuto molto. E, vabbè, questa è la mia riflessione, scusa. E poi volevo chiederti anche se questo testo che hai scritto, che è così personale, che è un po' un'autobiografia, che però prende le mosse, cioè le tappe di questa vita sono segnate da una caduta, no? Continui a inciampare, cadere, camminare, inciampare. E mi chiedevo, ma hai mai provato a far recitare questo testo a qualcun altro? Mm-hmm. Allora, non di trovare il titolo, secondo me appunto è stato un parto molto lungo quello del titolo, e poi ho scoperto casualmente che anamnesi, in realtà io non sapevo, in realtà io molte cose magiche le ho scoperte scrivendo il testo, ho scoperto che è proprio il racconto a voce che da paziente si fa, e questo mi ha molto, cioè non è un riportare, è proprio il racconto diretto. E poi romanzo sicuramente c'è la fantasia, un romanzo di formazione, eccetera. E io, proprio per come è fatta la nostra società, cresciuta io tra gli anni 90 e gli anni 2000, sicuramente per molto abilismo interiorizzato, io fino alla diagnosi comunque io non mi sono mai percepita come una persona disabile, ma non per, cioè, oggi dico perché era abilismo interiorizzato, quindi persona disabile, se là nell'angolo non puoi fare niente, io non sono come te, donna nana che va in piscina, io sono qua di passaggio perché mi faccio male, ma non sono come voi. Quindi questo è stato sempre un mio fortissimo punto, che non è bello da dire, però è un dato di fatto, ma mi fa anche riflettere proprio sulla società, sul fatto che non volevo essere quella cosa, ma nemmeno lo sapevo, beh, perché avevo questa lucidità e consapevolezza. E mi è venuta dopo, ovviamente, cioè la diagnosi per me è stato un punto di svolta in quello. Tra l'altro non ho mai avuto difficoltà con mie coetanee, ma solo con le persone adulte. Io con gli insegnanti, i medici, che fanno fatica a vedere l'invisibile o a pensare che magari oggi è male, domani no, sono sempre, anche non so, l'altro ieri facendo una visita, scontrata, perché non si capisce, perché bisogna capire, bisogna in qualche modo essere riconducibili a una cosa. E invece, essendo una malattia anche che cambia dinamica, questo crea difficoltà su chi a volte non so, su chi deve ricondurre appunto alla normalità. E sulla caduta e farlo dire a qualcun altro non sono ancora pronta, un giorno succederà, il figlio è ancora mio figlio, non sono pronta. Sarei curiosa, non lo escludo e non dico no, e anzi che bello, no? Però per adesso non lo so, è ancora molto tuo. Mio, sì, avrei un po' paura. Ma rispetto a questo discorso dell'abilismo, no? Diciamo, anche quando ci siamo conosciute, per te appunto era molto importante, anche penso che si capisca dal racconto quanto è stato appunto un passaggio quello di identificarsi anche nella disabilità e quindi non cercare di essere normale, tra virgolette, no? Ma invece accettare il fatto che forse quella normalità non esiste e che appunto forse viviamo in una società che invece non è in grado di accogliere ciò che, diciamo, non è normalizzato secondo poi chi, non si sa. E mi chiedo se appunto a livello anche del tipo di teatro che tu fai e che vorresti fare c'è un intento sociale o diciamo o per il momento è rimasto un racconto che volevi fare appunto, come dici anche tu, no, più per te stessa, perché è molto sentito, autobiografico e ti è servito anche, immagino, per un processo anche di dichiarazione, no, del, cioè, insomma, un po', si può dire, una sorta di emancipazione. Allora, anche qua appunto è un po' un ragionamento che mi sta nascendo, nel senso che ovviamente, ok, bello, ho fatto lo spettacolo, ho detto che una persona disabile, sono a posto con la coscienza, tra virgolette, e ora però voglio fare tutt'altro, perché non lo voglio fare più, non lo voglio dire più. Però mi sono accorta che anche questo forse andava un po' in negazione e che alla fine io, volente o nolente, ho tanto lo sguardo dell'autrice, dell'attrice, quando scrivo, quando faccio le cose, non esco, cioè anche se dovessi raccontare questo tavolo, poi mi viene. E alla fine mi viene, io sono questa, e quindi mi viene che adesso invento la sedia, non lo so, ok? Quello che penso è che, vabbè, io non sono tanto per le etichette, le categorie, servono per i bandi servono per mangiare, quindi ok, però sono più per il teatro in generale. Mi sto rendendo conto, non sempre con leggerezza, a volte c'è un po' di devo scontrare, che ho un'opportunità, nel senso che comunque io ho delle difficoltà, ma ho anche la possibilità di riflettere su delle tematiche, raccontare delle tematiche e quindi smuovere delle cose. Ci sono persone con la mia sindrome che hanno molte più complicazioni, ci sono molte altre malattie, ci sono tantissime tragedie in giro per il mondo, no? Genocidio, guerra, insomma, cosa posso fare io? Mi rendo conto che comunque io ho dei privilegi, ho delle sfortune, ma ho una serie di privilegi. E quindi non è tanto una missione a monte, ma mi rendo conto che viene così. Cioè, perché comunque alla fine viene così. E quindi usiamolo, non so come dire. E invece mi chiedo se, appunto, rispetto anche al discorso che abbiamo fatto fino ad adesso, come è cambiato il rapporto col tuo corpo, nel senso che il corpo peraltro è anche, forse anche lo dico in senso banale, ma è molto un tema anche femminile, quindi è soprattutto anche nella drammaturgia, nella poetica, letteratura, nell'arte, è sempre un po' un tema, no? Però, se mi permetto di fare questa osservazione, forse in un modo diverso, cioè nel senso che se penso, io faccio arte, quindi penso all'arte, penso a come l'arte del Novecento femminile ha cercato di riappropriarsi di un immaginario del proprio corpo, di come veniva visto, forse in un'ottica diversa rispetto a quello che ho percepito dal tuo testo. E quindi mi chiedo se, appunto, dal tuo punto di vista, come è cambiata l'evoluzione, cioè, insomma, il tuo rapporto in questo senso. Allora, anche qua sicuramente c'è un post spettacolo, un post maturità, e io mi reputo ancora in formazione, nel senso che io sto leggendo per me stessa libri su abilismo, su corpo, perché sono ignorante su questo, perché mi rendo conto che per un bel po', ma proprio un bel po', appunto io non ero come voi, e il mio corpo piuttosto era invisibile, un po' perché ero agevolata purtroppo dai gessi, dal vestito largo, quindi io non avevo il corpo, io ero molto simpatica, molto spigliata, ero sveglia, ma io non avevo un corpo, questo era un po' il mio standard. cresciuta, quando poi mi sono anche stabilizzata, so, 20 anni così, ho iniziato a vedere che c'erano delle differenze tra me e la mia amica, ma non riuscivo a capire in cosa, nel senso che poi per me il mio corpo è sempre stato questo. Quindi quando qualcuno là fuori dice, ah no, beh, si vede che hai qualcosa, io credo alle nuvole, perché io davvero non vedo niente, magari ho male la caviglia, però non vedo qualcosa. E vent'anni ho iniziato a vedere che c'era qualcosa di differente, ma non riuscivo a prenderlo, a coglierlo. Adesso che comunque racconto questo spettacolo, quindi mi auto faccio training, appoggio nel dire un zanzara, mi rendo conto che in realtà sono più libera, perché comunque poi, come sempre, quando siamo sincere con le persone si svelano delle cose, posso respirare meglio e posso anche che, cioè, posso esserci, anche se magari non in maniera perfetta, come si dice, perfetta, più libera direi. Non mi sento risolta sul tema corpo, come su un sacco di altri temi, però sento che sono meno imparanoiata, esatto. Cioè, un tempo fa non avrei fatto questa serata, o sarei venuta con una gonna lunga, e invece stasera lo metto, togliere il leggings, che non l'ho fatto solo per pigrizia, cioè, nel senso, ma non perché ci sia qualcosa da vedere, perché sono alcune cicatrici, c'è anche un po' togliere questa cosa, vedo, non vedo. Avevo fatto una replica, scusate, prendo il tempo, una signora poi era venuta a dirmi, insomma, di generazione precedente, ah no, perché le tue gambe, ah no, io guardavo le tue gambe mentre io ho cicatrice, quelle qua, tre, e stop. Perché ti sto raccontando una storia, cosa devi vedere? E quindi anche qua mi sono detta, non devo vestirmi su cosa devono vedere o cosa non devono vedere. Vado a fare la serata, a leggere il testo, voglio vestirmi così, mi vesto così, punto. Poi qualcuno vedrà qualcos'altro, quindi su questo mi sento un po' più tranquilla, ecco. Non so se c'è qualche domanda dal pubblico. Se vuole, vi chiederei di venire qui, così si sente il microfono. Ciao, innanzitutto grazie per questo bellissimo testo e per la presentazione. La mia domanda è sulla sfortuna, perché hai usato spesso questo termine, sono sfortunata, eccetera, eccetera. E il tuo testo si conclude con una riflessione che è una riflessione che facevo io oggi pomeriggio, casualmente. Cioè questa idea che gli esseri umani hanno la necessità di avere la garanzia che tutto andrà bene, che il futuro sarà bellissimo. Anch'io sono cresciuta con, tra gli anni 90 e 2000, con le fiabe della Disney, c'è sempre il lieto fine, c'è sempre il principe azzurro che ci salva e tutto vissero felici e contenti. Però la realtà è ben diversa e mi ha ricordato un altro drammaturgo, che è Eschilo, secondo cui un principio eschileo era quello del pate imatos, cioè dell'imparare attraverso la sofferenza. E mi sembra come se tu da questa enorme sfortuna e da questa enorme sofferenza che hai vissuto fin da piccolissima nel tuo corpo, nella tua quotidianità, nel tuo setting familiare, perché comunque hai avuto anche la fortuna di essere sostenuta da questi genitori che ti medicavano le ferite, che ti stavano vicino con tanto amore, e da questa sfortuna hai imparato tantissimo, hai imparato a confrontare una delle più grandi paure dell'essere umani, dell'essere umano, che coinvolge tutte, tutti e tutto, che è quella, è la paura dell'ignoto, è la paura di non sapere cosa ci sarà domani, cosa ci capirà domani. Quindi sì, sono interessata alle tue riflessioni sulla sfortuna. Grazie. Grazie. A Allora, la sfortuna, vabbè, appunto io sottolineo, non mi sento per niente risolta, cioè non sono arrivata da nessuna parte, non ho capito niente. Quando io continuo a dire io non ho capito davvero. Ma davvero ci tengo perché lungi da me ogni tanto dei barlumi, dico forse così poi succede qualcosa. Sulla sfortuna, allora, fa parte un po' anche del normalizzare, cioè no? Sono sfortunata, sono quella, capita che vai in bici, cadi, ti fai male. Allo stesso tempo è anche un po' fa parte dello spiegare, del darmi le spiegazioni. Sono sfortunata, continuo a cadere, mi lusso, cioè sarò sfortunata, che motivo c'è? E anche un po' in realtà a proposito di Disney, di questi libri, cioè io veramente leggevo Una piccola principessa, Sara chiusa in soffitta, 258 sfide in 4 pagine, però no, dicevo beh, è così, allora io sono sfortunata perché poi sono Pollyanna, cioè i pezzi Pollyanna che mi autotrascrivevo, ma perché pensavo, ok, c'è un senso, no? Allora ci deve essere per forza una spiegazione. Appunto, sul dire la paura non sai che cosa accadrà, anche questo io un po'. Allora, io ho molta paura del futuro, tantissima, e anche paura di dire oddio, magari poi non lo so, veramente poi mi faccio, non lo so. Allo stesso tempo, oggettivamente, questo penso che mi sia servito, sono pronta agli imprevisti. Cioè io so che ci sono gli imprevisti nella vita, per me è normale. Cioè quando c'è stato il Covid, ovviamente io l'ho vissuta male all'inizio, più che altro perché avevo il teatro e poi perché non si capiva tanto bene a livello fisico e tutto, poi in realtà nello specifico tranquillamente. Ma è vero che delle mie amiche molto più milanesi di me erano sconvolte da questa cosa che saltassero gli impegni, che non si sapesse quando riapre, quando succede che di nuovo. E per me questo era vabbè, ma io sono abituata così, ho detto va bene, ci vediamo alle 7 e magari inciampo nel marciapiede, ti chiamo, te lo dico. Su questo mi sento più. Cioè, occhio a non cadere, però allo stesso tempo so che può succedere. Su questo mi sento più fortunata in realtà, perché sono abituata, tra virgolette, a essere sfortunata. Sì, cioè, avevo molto male a un piede l'altro giorno, mi hanno detto fai una lastra, no? Fai una lastra, così cos'ha, sono andata a trovare una persona che era in pronto soccorso, cioè che in ospedale, faccio, senti quasi quasi, io già che ci sono, scendo, vado a fare una lastra. Mi ha incrociato un medico, sì, vedi, sono pazza, mi ha incrociato un medico che mi conosceva, ma guardate, fa, boh, secondo me, no, poi se vuoi farla lo stesso per sicurezza, faccio, ma no, ma io non ho tempo, se in pronto soccorso non torno più, e non sono andata, però non è che la vivo, cioè normale, non so come dire, su questa cosa io so che può succedere, che magari devo fare un controllo in più, che decido che non lo voglio fare, perché tanto so che in qualche modo me la gestirò, quindi così. Grazie. Niente. Grazie. Grazie. Scusate. Grazie. Salutaci. Certo. Allora, premessa di posizionamento politico. Parlo da persona che ha condizioni maschio-cis-etero, ovviamente non potrà mai comprendere la carne e l'esperienza di una donna nel contesto socio-economico-culturale in cui viviamo, per cui faccio delle considerazioni in base a osservazioni e cose che ho preso nella mia vita, comunque per esperienza diretta. E secondo punto, parlo anche da persona a cui è stato detto di iniziare un percorso per indagare una malattia rara, quindi un po' mi trovo in qualche modo risuono con questo. Ho 40 anni e stiamo cercando di capire cosa ho. Quindi detto questo, volevo proseguire un po' anche sul concetto della sofferenza, nel senso che tra l'anamnesi e la diagnosi c'è uno scarto dove la sofferenza viene delegittimata, si va a diluire, viene sminuita. E penso a quando ancora le donne venivano internate perché venivano definite isteriche, soffrivano di quelle che noi oggi chiamiamo malattie mentali. E penso oggi, quando una donna ancora impiega almeno 10 anni ad avere, ad esempio, una diagnosi di endometriosi. E il filo comune che poi collega anche la tua esperienza con lo stetoscopio e lo sminuire l'esperienza della sofferenza. E quindi volevo chiederti, dal tuo punto di vista, perché secondo te viene sminuita la sofferenza? Perché non si crede alla sofferenza finché non c'è il bollo della società ipermedicalizzata in cui viviamo? Qual è la difficoltà delle persone ad accettare la sofferenza altrui e a riconoscerla? Grazie. Ma io credo paura, no? Credo che faccia paura delle cose che fanno, cioè fa paura che può succedere anche a te che sei un medico. Solo non è, allora, non si viene creduti. Io non sono creduta, tendenzialmente a me non credono. Poi dici, bello, faccio lo spettacolo, anche questo ho detto, bello, faccio lo spettacolo, è fatta. No, ogni mattina tu devi, ma anche ai miei genitori, con tutto l'amore del mondo, che sono persone di 75 anni, a volte mamma molto male alle ossa, non riesco a venire, sarà il cambio del tempo. No, mamma, non è il cambio del tempo. È quello aggrava, no? I medici, peggio che andare di notte, anche qua a me è successo anche un annetto fa, uno che mi scuote il braccio, vedi che non ce l'hai secondo me. Io pensavo, Dio, mi ci manca solo che mi ero lussa, quella ma preoccupata, quell'altro che ti guarda, devi fare là, non mi ricordo che esame, ma cos'è che devo vedere, non si vede niente, tu no, però tu ogni volta devi, ed è difficile perché poi qua c'entra il genere, perché sei comunque donna, è il medico uomo, tendenzialmente sono uomini, non voglio generalizzare, però insomma per intenderci, ma io non cos'è che devo, cioè anche un po' scazzaci, perché devono vedere qualcosa, devono capire loro, e non, io non capisco perché mi devi mettere sempre in dubbio. Credo sia una forma di potere, il mio padre è medico, cioè nel senso, però uno dei pochi medici con cui io ho avuto, non sempre ovviamente essendo mio padre, però dei rapporti normali, e non lo so, credo sia una cosa di potere. Io il calice e tu no. E quindi anche quando appunto, per me era molto importante dire, non mi dice mai se vado bene, io lo chiedo. Ma al di là dell'età, io sono qui e il dialogo avviene tra il medico e il mio papà. Cosa vorrei sapere? Zero. È potere, è paura, secondo me, è anche paura di far vedere che non so una cosa. Cioè, ripeto, mio padre è medico, capiva che c'era qualcosa di differente da mia figlia si fa male, non sapeva cosa perché non era il suo. A un certo punto però mi ha detto, senti, io ho un dubbio, studiando cosa da fare, cerchiamo un medico che si occupa di questo tipo di malattie. E questo, credo che sia proprio questo. Sulla diagnosi, se posso dire delle cose, sul fare la diagnosi, allora io ho odiato fare la diagnosi e non ho più parlato con mio padre per mesi, perché lui che ha voluto sta cavolo di diagnosi, e poi era il settimo cielo perché avevamo capito, avevamo detto che era una diagnosi. Per me no, io 500 volte in più farmi male che cado a terra, ma non sono una persona ammalata. Quando ci ho fatto pace, e anche in questo periodo recente, mi rendo conto che con tanta fatica, pian piano, uno, qualcuno inizia a capire. Due, magari scopri anche che qualche vago e spaurito diritto puoi averlo, cioè io adesso mi sto mobilitando in questo senso, e per me, cioè io adesso, cioè io sempre magari succivalà in certe cose, adesso so meglio cosa fare, cioè sto anche nelle piccole cose, mi aiuta un po' a gestirmi meglio. E poi a me è successo moltissimo che, poi voi chiudetemi che parlo tanto, che tutte le mie amicizie, quando io l'ho detto, hanno detto, ah, ecco, l'ha detto, finalmente. Cioè io ho appunto due fratelli, cioè due sorelle e un fratello è gay, è stato uguale. Quando mio fratello ha detto sono gay in casa, tutti, oh, finalmente l'ha detto, non se ne poteva più di questo, no, di questa cosa che non si diceva. E ho vissuto lo stesso con me, perché tutte le mie amiche, tutte le mie amicizie in generale vedevano che c'era qualcosa, e quello che ho ricevuto è stato un oh, mi sento più libera di dirti delle cose, di chiederti delle cose, di proporti delle attività, perché prima sentivo sempre che c'era un qualcosa di segreto, ma io non lo sapevo. Quindi a me l'ho odiata all'inizio, però poi mi è servita e sono contenta in realtà di aver avuto una diagnosi, ecco. È ogni giorno da riconfermare, non è che è fatta, cioè ogni giorno devi passarci dentro. In qualche modo, se posso aggiungere, a me sembra un po' che la diagnosi è come se legittimi in qualche modo, perché esistono tante realtà, no? Esiste la tua realtà, la mia realtà, e la realtà è quella che è legittimata e normalizzata da chi può legittimare. Quindi nel momento in cui io ho una diagnosi, questa cosa mi dà una spiegazione, quindi la posso contemplare all'interno della realtà, perché l'ha detto il dottore, perché l'hanno scritto. E da una parte non so quanto per te lo è stato, però potrebbe, cioè io per esempio quando ho qualcosa e non capisco cos'è, questa cosa mi destabilizza. Quando ho la diagnosi mi rassicura il fatto che so che cosa ho e quindi forse ho il controllo su questa cosa, o comunque la si può curare, o comunque ho una scusa per, e dall'altra parte chi, lo posso comunicare come dicevi tu, sì. E quindi è legittima la mia sofferenza, allora posso esistere in quel modo, non lo so, però in qualche modo è come se in un certo senso abbiamo bisogno della diagnosi anche sia chi deve legittimare una sofferenza che chi soffre, perché se non capisci cos'hai ti senti un po' perso, no? In qualche modo. Invece se sai cos'hai puoi raccontarlo, magari puoi scoprire in qualcun altro che ha la stessa cosa e quindi sentirti meno strano. Sì. Cioè, secondo me per esempio sul conoscere altre persone con la stessa patologia, poi appunto anche qua, cioè dipende per le persone, a me a volte alcune persone mi agito perché vedo cose che io non ho, o piuttosto che altre volte è molto utile in questo caso dei diritti, non so niente di disabilità, di diritti. Nell'ultimo anno mi sono messa sotto con una serie di scelte e sto scoprendo, ovviamente non è che sia tutto facile, serve tanta pazienza, però sto scoprendo delle cose. E sì, hai una cosa, alla fine la diagnosi, non so come dire, c'è la fantasia, i libri, ok, Pollyanna, però nella verità tu hai una malattia, quindi questo è vero, e quindi va bene anche che è vero e che lo posso dire ad alta voce, e tu mi hai detto che tu forse ne avrai un'altra, e magari, sembra l'Olimpiade, ne avrò un'altra ancora, o magari non avrai una malattia, va bene qualsiasi altra cosa, serve anche un po' a normalizzarlo. Io finisco spettacolo con gente che mi dice, scusa, io ho male qua, secondo te devo fare una lastra? Io ogni volta dico, guarda, io non sono un medico, però se ci puoi stare bene, falla. E quindi serve a, non è che serve o non serve, è che c'è. Cioè io sono bassa, ma sono bassa, fine, inutile che dico non sono bassa, cioè è un dato di fatto. Quindi dopo che lo so, ci saranno degli accorgimenti differenti oppure no. Io quando concludo dicendo, riassumendo, sono radicata che si tratta un po' sfortunata e bassa, è perché poi a me, nella vita quotidiana della gestione del mio corpo, è cambiato poco. Cioè io già avevo capito che dovevo stare attenta a una serie di cose. È cambiato più nel diritti e nel fatto che anche le altre persone, cioè le mie amiche, si sentono più libere di dirmi, guarda, andiamo in montagna, fino a qua è fatta così. Ti va? Vieni, c'è la macchina, vieni. Oppure, guarda, io e Marta domani vogliamo andare sull'Everest, ti scoccia. Cioè, c'è più sincerità. E anche più, ovviamente, chi ci ama, più cura. Cioè, a me, l'altra sera l'ho fatto una cena a casa mia, ero super stanca, stavo disdicendo tutto, e un amico fa, ma scusa, ho pensato, ma se ordiniamo le pizze ci facciamo trovare quando arrivi tu a casa e mangiamo le pizze, così non ti sbatti e non vieni tu da... Certo, cioè, piccole cose. Quindi questo è la verità, cioè nel senso anche rispetto al genere, no? Cioè quando diciamo la verità, in realtà c'è sincerità e possiamo avere rapporti più, più onesti con le persone. Succederà una bella scrematura, una scrematura utile in realtà. Sì, perché... grazie, scusa. No, anche in questo abilismo che c'è, c'è quasi anche il tema della vergogna poi esce fuori, no? Perché io non posso dire che mi sento stanca, perché poi sembra che sono una che rompe, che pesa, no? Però magari tu sei fatta diversamente da me, che per me magari è facile, per te no. E quindi forse è anche un tema di accettazione. Sì, sì. Riconoscimento. Sì, sì, di accettazione e riconoscimento da entrambi i lati, perché poi anche la società si deve rendere conto che non siamo tutti che lavoriamo in quel modo lì. Cioè, io quando vedo le mie amiche come lavorano penso, grazie a Dio io non lo faccio, cioè, perché non è normale per me, quello non è normale. Cioè. No, e poi magari anche di, cioè, nel momento in cui, cioè, rispetto anche al discorso che stavamo facendo prima della spilletta, della metro, cioè posso capire in un certo senso la difficoltà o anche la non voglia di dover necessariamente dichiarare una cosa per poter ottenere, in quel caso allora hai dei diritti in più rispetto agli altri, invece di creare una società che sia in grado di essere inclusiva a prescindere. Però penso che un po' forse il primo passo anche per raggiungere quel livello lì sia quello di forse anche lottare in questo senso, perché non siamo, cioè, al di là ovviamente è importante che tu l'abbia fatto per essere più sincera nelle tue amicizie, con la tua famiglia, eccetera, però penso anche proprio a livello identitario che diventi una cosa che, cioè, porti avanti con fierezza, ma nel senso anche proprio di lottare perché questa cosa sia vista e tutelata, e quindi che diventi anche un po' una pretesa, non più solo un modo per uscire da... non so come dire, cioè finalmente avere l'accettazione di un disagio, ma proprio anche iniziare a pretendere che questa cosa abbia un effetto appunto anche sugli altri. Sì, sì. Sì, sicuramente poi dopo il passaggio più personale, cioè quello pubblico, e sono, cioè per me è molto importante, sono d'accordo. Anche qua appunto ho persone che magari mi dicono adesso io sto più attento al metro, io vedo se magari qualcuno ha bisogno, guardo di più, di solito non guardavo. Raccontavo a Laura che siccome, cioè appunto gli anni passano per tutti e quindi comunque facendo una proporzione, io su certe cose ora sono un po' più stanca, ma magari di quello che può essere un'altra persona di, cioè, di 40 anni, mi sono fatta per trovare una soluzione, la TM, vabbè, con tutte le cose, con tutte le modalità che potete pensare, no? Con vabbè, lasciamo stare. Mi ha mandato questa spilletta azzurra, quella quel simboletto che io non avevo neanche forse mai visto, che è su alcuni posti della metropolitana del posto riservato, dove anche lì c'è anziano col bastone, donna incinta e persone in carrozzina, forse. Perché è invisibile, come la fai? Cioè, anche qua, no? C'è tutto un tema. L'idea è un supermercato, io faccio mille ore di, cioè per me è pesante, giro, poi faccio la fila e poi io mi devo fermare un attimo sulla panchina, farmi un censo, non so, perché sennò non riesco ad andare a casa. Questa spilla è appunto segnala, no? Io la odio in realtà, quando me l'ha mandata poi è grossa, cioè una roba terribile, ti rovina la giacca. Nelle ultime settimane, poi io anche che siamo pieni di gente in metro, ho detto, vabbè, proviamo a vedere se funziona. E devo dire che qualcuno da solo la usa, la vede, la nota, e io magari vado in quel posto lì, a me viene poi da andare magari attraverso tutta la carrozza, ondeggiando per raggiungere il posto blu, probabilmente non è necessario, basterebbe dirlo. Però mi sono detta, io non l'avevo mai vista, magari... Chissà se qualcuno l'ha vista, cioè magari entra in voga, non voglio dire, però è un modo, tutti con la spelletta, esatto, però diventa un modo anche perché le persone si guardino intorno. Poi dicevo, Laura, c'è anche gente che poi mi scruta dopo che ho chiesto, mi dice, si gira e prende a guardare il telefono, io, no, ma no, serio. Però sicuramente ora c'è una trasposizione per quanto mi riguarda, appunto io mi rendo conto che rispetto a delle persone io ho comunque delle opportunità, perché scrivo, la possibilità di dire la mia, comunque cioè anche manifestazioni, no? Ancora te, eccetera. Corpo in piazza, molto bello, io sono sempre andata, Dopodiché uno, c'è tanta gente che vorrebbe andare ma non può andare, perché non può andare, quindi non è che, cioè va, non bisogna sminuire secondo me neanche altri tipi di politica, di attivismo, perché non tutti possiamo sempre scegliere. Altra cosa, che riassumo perché sono molto pluralista, appunto sono andata in manifestazione senza grosse difficoltà ovviamente, però c'era cioè, qualcuna, però vabbè. Io non andrò mai più in corteo, cioè io adesso mi sento più precaria perché sono stata in corteo quando è stato in centrale mesi e mesi fa e mi sono resa conto che ovviamente, come potete immaginare, avevo più paura della polizia che di altro, però ho sentito che io non... come facevo lì? Cioè, io ho avuto proprio paura perché io non riuscivo a correre in quel modo, non riuscivo a farmi prendere in quel modo, ho proprio... E lì l'ho sentito tanto e mi si è aperto un mondo, perché ho detto, ma vedi te, se una che è sempre andata in manifestazione non ci può più andare perché ha paura di prenderle o ha paura di... Cioè, soprattutto sono anche caduta, cioè poi io sono caduta, non mi è successo niente, solo della gente che mi ha aiutato ad alzarmi che non mi sono seduto, ok? Ho detto, wow! Cioè, però anche questo è un tema per me, non siamo tutti uguali, non siamo tutti uguali quando vogliamo andare a manifestare o quando vogliamo andare in un negozio e c'è tutto, tutto liscio, ma c'è sempre il gradino, c'è un gradino, c'è sempre e il tipo che ti dice, ma no, ma è accessibile, io ho imparato a chiedere se è accessibile, ma no, ma poi ti porto in braccio, ma no, ma ti aiuto, o vai in bagno, il bagno è chiuso, il bagno per disabili, per esempio, anche lì nessuno mai pensa che io lo userei semplicemente perché c'è meno fila, cioè io faccio fatica a stancarmi tanto e a farmi i metri, poi lo apri e ho uno sgabuzzino, oppure nei locali lo chiudono alle 9 di sera perché tanto la gente disabile alle 9 è già a letto, ma se ci iniziate a fare caso, io non lo notavo io, adesso che inizio a conoscere più gente disabile, perché io prima non ne conoscevo, o che inizio io ad avere anche altre difficoltà, mi accorgo molto più di queste cose ed è per questo dico poi la diagnosi, sì, bello, dopodiché ogni giorno devi un po' metterti in gioco, però sicuramente più racconti più ci sarà qualcuno che se ti chiedo, appunto Laura diceva, ma se uno mi chiedesse se posso sedere, io gli, cioè, lo faccio sedere, non è che vado a pensare perché mai vorrà sedersi. Ma magari anche sullo stacco della giornata, infatti mi sembra giusto il tuo racconto che uno chiede se può sedersi e questo neanche si alza. Mi ha fatto così, tipo... Cioè dai, no ma dico che non in quel senso mi sento di dire, non è che devi avere una disabilità no. Per chiedere di sederti. Sì, vabbè, era no. Un po' quello che diceva lui, no? Che la sofferenza è legittimata nel momento in cui è diagnosticata. Sì, ma infatti a me la fastidio sta spilletta, dopodiché mi dico, oh, ci sono le Olimpiadi, non ci si siede, già è così, che devo fare? Io uso la spilletta, mi siedo e poi leggo, cioè che poi la gente ti guarda, ma poi leggi o telefoni, mamma, cioè non è che poi hai la bava alla bocca, no? Poi sei... Grazie. Bene. Se qualcuno ha qualche altra domanda, ma direi che possiamo chiudere. Vuoi dire qualcosa? No, grazie. Grazie, grazie al Bar Leila per esatto. Grazie al Bar Leila. Grazie a voi di essere venuti. Grazie a Carla.